Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Per una notte di vino pagherò 100 giorni d'aceto. Per una notte di vino pagherò 100 giorni d'aceto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Avete appena sentito Alessandro Mannarino che canta "Per una notte di vino pagherò 100 giorni d'aceto". In termini economici la metafora non regge, perché l'aceto normalmente vale di più del vino, quindi avrebbe dovuto dire che per una notte d'aceto paga 100 giorni di vino. In più l'aceto è anche dolce, ma tant'è. Oggi parliamo di aceto e parliamo di uno dei principali produttori di aceto, aceto balsamico e anche di alimentari, che è la Ponti S.p.A. Parlare di questo tipo di industria, anzi di un'industria di questo tipo, scusatemi, ci consente anche di parlare dell'elevata automazione che c'è nell'industria alimentare e che spesse volte è un'automazione italiana, perché noi siamo fortissimi nella meccanica. Intanto comunque salutiamo il dottor Giacomo Ponti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, dottore. Allora, aceto Ponti, poi in realtà aceto, conserve, insalata di riso e quant'altro, 112 milioni di fatturato, 200 dipendenti su 6 stabilimenti molto automatizzati. Ma prima di arrivare all'automazione le volevo chiedere: che cosa significa la fabbrica dell'aceto? Come si fa a produrre l'aceto a livello industriale? È un processo assolutamente naturale, perché il batterio che trasforma l'alcol contenuto nel vino, ma in qualsiasi sidro di frutta, si chiama Acetobacter aceti ed è stato scoperto da Louis Pasteur nel 1863. È un batterio strettamente aerobo, quindi vuol dire che si ciba di ossigeno e nel suo metabolismo trasforma, mangiando l'alcol contenuto in qualsiasi vino o sidro di frutta, in acido acetico. Quindi noi abbiamo delle apparecchiature, quindi un processo assolutamente naturale, che insufflano forzatamente aria con delle particolari turbine per accelerare e rendere continuo questo processo. Interessante, ma non c'è bisogno di difendersi dicendo che sia un processo assolutamente naturale. Potrebbe anche essere un processo totalmente industriale. C'è, secondo me, una certa retorica per cui quello che è industriale è negativo e quello che è fintamente naturale è positivo. E a me, francamente, e anche a questa trasmissione, Trova assolutamente Difendiamo l'industria, perché non è una... Come immagino lei sappia, l'aceto è un prodotto che è nato con la storia dell'uomo, poi è un po' la storia dell'uovo, della gallina: è nato prima il vino, prima l'aceto, non si sa, ma le prime tracce sono addirittura nelle anfore egizie piuttosto che nelle assirobe bironesi, ed era utilizzato non solo per insaporire le pietanze, ma soprattutto per conservare, perché naturalmente nei millenni passati non c'era la catena del freddo, i frigoriferi eccetera, e quindi una delle possibilità per conservare carne, verdure, pesce era quella, quindi sale e aceto. Comunque voi siete la quinta generazione di un'azienda di famiglia e siete a Novara, anzi a Gemme, in provincia di Novara. E però quando uno pensa all'aceto balsamico pensa a Modena, forse perché voi siete nati con l'aceto tradizionale e poi c'è stata questa diversificazione nell'aceto balsamico. Esatto, nella fine degli anni Ottanta abbiamo introdotto nel mercato italiano e anche internazionale, oltre all'aceto balsamico di Modena, che nel 2009 ha ottenuto l'IGP, anche l'aceto di mele. Che è stato un altro grande successo, mentre negli anni passati la maggior parte dell'aceto, soprattutto venduto in Italia, era aceto di vino. È stato un importante passaggio quello della diversificazione per l'azienda, perché ha portato poi ad affrontare con maggior successo i mercati stranieri, quindi le esportazioni. Infatti l'aceto balsamico è uno dei nostri prodotti più esportati. Senta, ma come si produce invece l'aceto balsamico a differenza dell'aceto di vino? L'aceto balsamico è un unicum, appunto ha un IGP, è un blend, è un mix tra due principali ingredienti, l'aceto di vino e il mosto, che può essere mosto d'uva concentrato o concentrato e cotto. Il mosto d'uva deve arrivare da 7 vitigni, che sono indicati nel disciplinare, che sono i vitigni più coltivati nella regione Emilia-Romagna, essendo un prodotto che è nato nel... E come mai è così dolce? È dolce perché c'è questo apporto di, come dire, aromatico, un bouquet dolce dovuto al mosto. Il mosto è la spremitura dell'uva fresca, dell'uva da vino fresca. Questo mosto poi, per essere stabilizzato, perché sennò fermenta e diventa vino, viene concentrato, quindi viene tolto circa un terzo dell'acqua, quindi il contenuto zuccherino si alza molto. Nel concentrato i profumi sono più relativi al mondo floreale, quindi del mondo dei fiori, invece nel mosto cotto, quindi prima si concentra e poi quindi con la tecnica del vuoto, quindi la caramellizzazione di zuccheri non avviene, invece nel cotto il vuoto viene tolto, in questi particolari apparecchi che si chiamano concentratori si fa un'ulteriore cottura e gli zuccheri vengono caramellati, quindi il colore diventa più scuro e soprattutto i profumi diventano più terziari, quindi ci riferiamo più al mondo delle marmellate, tipo marmellate di prugne, per esempio, piuttosto che il classico e tipico sapore del caramello. Quindi voi avete acquisito aziende a Modena? Sì, abbiamo acquisito una piccola cetaia all'epoca, nel 1990, e poi l'abbiamo ingrandita, l'abbiamo ampliata, abbiamo comprato anche un nuovo stabilimento all'interno del comune di Vignola, che è in provincia di Modena, ai piedi dell'Appennino, e abbiamo uno stabilimento modello dove abbiamo tutti i giorni sono messi in stoccaggio e in maturazione più di 4 milioni e mezzo di litri di aceto balsamico di Modena in attesa di IGP, perché oltre alla selezione delle materie prime ci deve essere un certificato periodo di maturazione o invecchiamento prima di essere immesso sul mercato. Senta, voi avete una strategia di acquisizioni, ne avete fatte numerose negli ultimi anni. Ne abbiamo fatte numerose, sì. Ci vuoi raccontare le principali? Sì, in realtà io ero bimbo quando questo accadeva, ma mio papà e mio zio hanno, tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 80, hanno acquisito 15-16 concorrenti tra i principali. Qualche nome? Ma l'aceto Carrera, per esempio, l'aceto Biasin, che erano i due concorrenti. A Novara? Veneto, no, erano in Veneto. In Veneto, certo. Poi a Lugo di Romagna c'era un altro, l'abbiamo comprato anche lo stabilimento, poi l'abbiamo trasferito da Nagni, ma non mi ricordo il nome in questo momento. E proprio perché all'epoca il mercato era principalmente incentrato sull'aceto di vino nella bottiglia da litro. Ecco, ma perché, scusi, mi tocca una curiosità, perché l'aceto di vino costa così poco? Come si fa? Come mai? Questo è una volta mio nonno diceva che eravamo, come dire, fissati al prezzo della tazzina del caffè al bar. Adesso costa di più una tazzina di caffè al bar che un litro di aceto. E che un litro di aceto alle volte lo vedi a 0,70, 0,80 centesimi, costa meno dell'acqua, com'è possibile? Sì. Beh, meno dell'acqua forse no, perché è una bottiglia da litro, però insomma... È possibile perché c'è intanto molta efficienza si producono grandi volumi e quindi c'è un'efficienza a livello di costi, a livello industriale. E forse anche a livello di gestione dei magazzini, per cui non ricaricate sul prezzo finale il costo del magazzino. Ne abbiamo tre, uno appunto per il nord-ovest a Ghemme, uno vicino a Treviso per il nord-est e uno ad Anagni per il sud Italia, e chiaramente più il prodotto è povero, più il prodotto pesa ed è voluminoso come una bottiglia di aceto, più l'incidenza logistica diventa elevata, e quindi questa strategia industriale ci ha permesso di avere un unico listino su tutto il territorio nazionale. È chiaro che tutto poi si rifà anche al costo della materia prima, cioè del vino primo fiore che noi utilizziamo per produrre l'aceto di vino classico, che ha un prezzo che non è elevatissimo, insomma. Mi interessa molto l'importante investimento in automazione che voi avete fatto. I vostri magazzini sono estremamente automatizzati, ci sono dei robot, pallettizzatori e c'è una ricerca dell'efficienza. Fra poco andiamo in pubblicità, però intanto se inizia a raccontarcelo, poi lo riprendiamo nella seconda parte della trasmissione. L'azienda ha sempre avuto una tensione verso l'automazione e la tecnologia proprio per un contenimento dei costi e quindi abbiamo sempre, sia mio papà, mio zio e prima mio nonno, sempre avuto un'aspirazione, anche una passione ad avere il meglio della tecnologia nei nostri stabilimenti. Sottolineo che è tutta tecnologia italiana che noi acquistiamo da fornitori che ci servono da svariati decenni e quindi le posso dire che per esempio in uno stabilimento di Gemme con 7 persone direttamente impiegate noi riusciamo su un turno, utilizzando un turno di 8 ore in un anno, a produrre più di 25 milioni di bottiglie. Cioè tutto lo stabilimento ha solo 7 dipendenti? Direttamente impiegate nella linea di imbottigliamento, sì, poi ce ne sono di più perché c'è la cantina, ci sono i meccanici, ci sono... Ecco, quindi io richiamo gli ascoltatori su questo. Sono 2 linee di imbottigliamento. Un'automazione così efficiente ridurrà anche il numero delle persone, ma permette alle aziende di rimanere competitive restando in Italia. L'automazione crea più posti di lavoro di quanto si immagini, perché se non fossero così automatizzate le aziende non sarebbero competitive. Prima di arrivare alla pausa, rilancio il nostro dibattito sui robot. Volete voi la tassa sui robot? Che cosa ne pensate? Che cosa pensate di questa automazione così pervasiva? Scrivete a fabbrica@radio24.it. Adesso ci interrompiamo un attimo per avvisi sul traffico e varie ed eventuali. A dopo. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Pierluigi Pardo. Confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale. E poi? E tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile. Tutti i giorni, tutti convocati. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.30 c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni. Di tutti siamo una squadra fortissimi. Fabbrica 2.4. Rieccoci in trasmissione Fabbrica 2.4. Oggi parliamo di aceto e in particolare della Ponti Spa con Giacomo Ponti, però il nostro focus è l'industria alimentare e io non ho nessuna paura a chiamarla industria. Bisogna essere orgogliosi che sia industria, perché sulla natura, sul bio, sul fintamente naturale, sulle valli di campi coltivati agresti dove c'è la felicità, hanno fatto un sacco di propaganda che non corrisponde alla realtà, né alla realtà reale e nemmeno alla realtà auspicabile. Il progresso e la società dipendono dall'industria. È l'industria che ci ha fatto progredire, è l'industria che ci dà da mangiare a tutti, è l'industria che ci dà cultura, è l'industria che produce ricchezza, è l'industria che produce sapere e soprattutto l'industria manifatturiera. L'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa, deve il suo sviluppo, deve tutto a questo, perché siamo anche un paese povero di materie prime e dobbiamo essere orgogliosi della nostra industria. Industria, industria, industria. Ma adesso torniamo a Ponti, Giacomo Ponti. Parlavamo di questo vostro magazzino automatizzato. Ci racconta bene come funziona? Praticamente ci sono i camioncini che viaggiano da soli all'interno del magazzino, giusto? Giusto. Abbiamo delle navette che sono guidate da... sono elettriche, che trasferiscono i pallet dallo stabilimento al magazzino automatizzato. Poi ci sono dei rulli, dei trasporti con rulli e catenarie che trasferiscono ai 3 trasoli elevatori i pallet prodotti, che vengono presi in carico dal sistema e vengono sistemati da questi carrelli elevatori, per intenderci, senza uomo a bordo, nella propria sede. E sempre gli stessi trasoli elevatori o comunque carrelli senza uomo a bordo riprendono il pallet e lo mettono a disposizione degli operatori per la successiva spedizione. Comunque penso lei sia d'accordo su quanto ho detto io, che l'automazione in realtà sembra togliere posti di lavoro, ma è quella che consente alle aziende di rimanere competitive. No, sono molto d'accordo con lei, aggiungo che sono parole sante quello che lei ha detto relativamente all'industria, aggiungo solo una cosa, che i processi industriali oltretutto sono molto sicuri perché sono certificati, tracciati, e quindi il consumatore, rivolgendosi a un prodotto industriale, alla sicurezza alimentare. Ma certamente, anche perché poi secondo me sui cosiddetti prodotti naturali si raccontano tante spregevoli balle. Io vorrei sapere dove sono questi prodotti naturali, totalmente naturali, totalmente. Ma che poi, appunto, come le dicevo, l'aceto è un prodotto naturalissimo perché è prodotto con è una ossidoriduzione, se vogliamo. No? Certamente. Sentite, ci interrompiamo un secondo per una scheda sulla storia della Ponti. Sentite qua. L'attività della famiglia Ponti comincia nel 1867 a Sizzano, in provincia di Novara, con Giovanni Ponti, agricoltore e produttore di vino e aceto. La passione paterna è trasmessa al figlio Antonio, che amplia l'attività artigianale e partecipa a molte esposizioni nazionali ed internazionali, fino a ricevere nel 1911 il diploma d'onore per vini e aceti alla Fiera Internazionale di Parigi. Nel 1948 Guido Ponti, che rappresenta la terza generazione, ottiene il diploma alla Regia Scuola di Viticoltura e di Enologia di Alba. Nello stesso anno viene inaugurato l'attuale stabilimento di Gemme. È il 1965 quando entra in gioco la quarta generazione, rappresentata dai fratelli Cesare e Franco, figli di Guido. Sono loro a dare un impulso decisivo all'attività, con una politica di espansione che include l'acquisizione dei maggiori acetifici concorrenti e la conquista dei mercati internazionali. In questi anni inizia la diversificazione dell'attività, ampliando la produzione delle conserve vegetali all'aceto e all'olio di oliva, iniziata nel 1939. Perseguendo una politica di decentramento produttivo vicino ai mercati di sbocco, Ponti inaugura nel 1974 il secondo stabilimento di produzione di aceto nel Veneto, a Dosson di Casier in provincia di Treviso, diventando la prima azienda italiana del settore. Nel 1986 si inaugura il nuovo attuale stabilimento delle conserve vegetali a Gemme per fare fronte al successo conseguito con il lancio di una innovativa linea di prodotti a marchio Peperlizia, che definisce una nuova area di gusto per i consumatori più raffinati. Nel 1991 viene acquisito l'80% della Modena Aceti SRL di Vignola in provincia di Modena, specializzata nella produzione di aceto balsamico di Modena, situata in posizione strategica nel cuore della zona riservata alla produzione del ricercato aceto. Nel 2000 viene approvato un importante piano quinquennale di investimento che prevede l'aggiornamento dell'architettura informatica aziendale, degli impianti industriali e la costruzione, a Gemme, di un moderno magazzino di stoccaggio e distribuzione del prodotto finito. Giacomo Ponti, rappresentante della quinta generazione di famiglia, entra ufficialmente in azienda. Nello stabilimento di Gemme nel 2001 entrano in produzione le tre rinnovate linee di confezionamento delle conserve di verdura. La produzione incrementa del 30% per venire incontro alle nuove esigenze del mercato e produttive. Gli impianti sono il meglio che offre l'industria italiana in fatto di tecnologia, automazione e innovazione. Robot antropomorfi per la pallettizzazione e depallettizzazione, raggi X per controllare il contenuto di ogni vasetto, navette trenino senza uomo a bordo che movimentano i pallets di prodotto finito, sono solo alcuni esempi. Nel 2002 entra in funzione il nuovo magazzino automatizzato a Gemme. 10.000 metri quadrati di superficie, 13.500 posti pallets, di cui 10.000 nella parte automatica, governata da 3 traslo elevatori. Rieccoci in linea con Giacomo Ponti, stiamo parlando di Ponti S.p.A., avete appena sentito una scheda, e anche dell'industria alimentare. Senta, ma lei è l'esponente, pare, della quinta generazione. Il problema è che le famiglie hanno difficoltà a sopravvivere al passaggio generazionale, perché c'è sempre qualcuno che invece di dedicarsi alla crescita dell'azienda o non è capace o ha altri interessi, oppure si dedica a bolidi, Ferrari, macchine da corsa, meretrici, droga, rock and roll e quant'altro. E lì com'è che è andata da voi? Ma noi siamo stati fortunati innanzitutto perché non siamo in tanti, perché ci sono mio papà e mio zio e successivamente mia cugina e il sottoscritto, e quindi essere in pochi è sicuramente un vantaggio. In più sia mio papà che mio zio sono stati abbastanza tra virgolette severi nell'imporre un percorso professionale e di studi che potesse essere idoneo alla conduzione di un'azienda, tanto che ci hanno sempre detto: se volete entrare in azienda e sarete preparati, saremo le persone più liete del mondo; qualora invece voi vogliate fare qualsiasi altra scelta professionale, ne avete facoltà e libertà, vi aiutiamo a studiare, a fare quello che desiderate nella vita. Per me è stato, dal mio punto di vista personale, una scelta libera, e perché fin da piccolo io volevo fare il lavoro che faceva mio papà, mio zio e mio nonno, quindi... Ecco, ma l'azienda lei come la vuol far crescere? Vuole continuare a fare acquisizioni? Vuole aprire nel resto del mondo? Sicuramente noi abbiamo un piano triennale di crescita, dove la crescita all'estero è uno dei pilastri. È chiaro che se ci dovessero essere dei dossier interessanti di acquisizioni di aziende coerenti con la nostra capacità e la nostra area di business, lo faremo molto molto volentieri. Ma riuscite sempre ad autofinanziarvi, oppure c'è bisogno magari di private equity, o avete pensato anche alla borsa? Dipenderà naturalmente, qualora vi sarà, dalla preda, perché se fino a una certa dimensione l'azienda non ha indebitamento, quindi potrebbe autofinanziarsi, oltre una certa soglia è chiaro che bisognerà trovare o un partner finanziario, o non escludo una successiva, non siamo, come dire, preconcetti alla borsa, però ecco, al momento, questo momento non è necessaria sul tavolo da studiare. Si potrebbe essere nel caso di un'acquisizione. Poi tra l'altro voi avete fatto delle diversificazioni in sottaceti che ci stanno, ma anche in salate, cibi pronti. Pensate di farne ancora di diversificazioni? Ma abbiamo comprato nel 2008 una piccola azienda che trasforma frutta biologica in sidro e quindi in aceto di mele, e anche in succhi e marmellate. L'azienda si chiama Achillea, nell'Alta Valle del Po. Questa è stata l'ultima. Dobbiamo consolidare anche quello che abbiamo, ci stiamo lavorando, però non è escluso, anche se comunque secondo me la focalizzazione delle imprese è un fattore di successo. Certo, poi però voi avete anche il vantaggio di avere una presenza commerciale forte, radicata presso la grande distribuzione. Certo. E quindi magari i vostri commerciali potrebbero anche spingere altri tipi di prodotto, no? Sì. Questa potrebbe essere la logica. Sì, sì. Lo è. E avete mai pensato di aprire degli stabilimenti produttivi fuori Italia? Al momento no, anche perché per noi il Made in Italy è una delle nostre bandiere, insomma, e quindi al momento non ci sfiora l'idea. Qual è la maggiore difficoltà con la quale lei si trova a confrontarsi? Il fatto che ogni progetto deve essere studiato nel minimo dettaglio, perché con rischi, costi, benefici, fatturati e margini attesi, perché nulla è dato più per scontato, sia in Italia che all'estero, devi essere, siccome costa molto andare nei mercati, lanciare un prodotto e soprattutto mantenerlo, promuoverlo e nella speranza che poi abbia lunga vita, e quindi bisogna essere innovativi da una parte, perché il mercato ha necessità di essere innovativa, di avere dell'innovazione, e l'industria per sopravvivere deve essere innovativa. Il problema sono appunto è la sostenibilità dell'innovazione, quindi avere dei forti strumenti sia di analisi di mercato e sia di come dire, rendicontazione a mano che passa il tempo per capire se rispetto, come dire, al business plan che ti sei preposto stai andando in linea, sotto o sopra. Bene, bene, discorsi interessantissimi, viva l'industria, viva i robot, scriveteci a fabbrica@radio24.it, la puntata è in chiusura, ci sentiamo domani alle 13.10, salutiamo e ringraziamo Giacomo Ponti, arrivederci. Arrivederci, grazie a tutti.